Eccoci a una nuova puntata, a un nuovo appuntamento con La Signora Sono Io. Insieme ciao a tutti. Eccola, a Stefania Placidi, la duchessa che si schiarisce la voce. E Bianca Giovannini, la Iorona. Eccoci, buongiorno. Bella giornata, insomma, oggi un po' si è guastato il tempo, però è una bella giornata lo stesso. Sì, Roma, il problema è che volevo venire di nuovo a riportare il mio canetto, che il primo giorno ci aveva allietato col suono delle unghiette sul parquet di Radio Onda Rossa 87.9. E invece, siccome piovicicava e lui c'ha una certa età, ho pensato che non era il caso. Casomai in un giorno di sole che Roma ci sa regalare, riporteremo anche lui. Allora, cara duchessa, iniziamo subito. Noi parliamo di storie, di arte, di cultura e di musica romana. Allora, oggi. E non solo. Allora, oggi una piccola introduzione. Nel 1600 il marchese di Palombara, proprietario di una villa all'interno dell'attuale giardino di Piazza Vittorio a Roma, ricevette la visita di un misterioso alchimista il quale portava con sé, almeno questo disse al proprio ospite, portava con sé la ricetta che aveva la proprietà di trasformare in oro alcune delle piante contenute nel giardino di questa villa. E chiaramente attratto da questa possibilità, il marchese lo ospitò e attirò anche molti ospiti con la promessa di questo miracolo. Chiaramente a un certo momento nella notte il famoso alchimista si dileguò, lasciando un mucchietto d'erbe, un mucchietto d'oro accanto a una scritta che conteneva questa formula straordinaria, ma questa formula straordinaria era leggibile solo dagli intenditori. Ed ecco che il marchese, non sapendola interpretare, la scrisse su una porta. E questa porta ancora oggi è nel centro di Piazza Vittorio, quella che poi è diventata Piazza Vittorio. È la porta magica. Nota, ormai la piazza è nota per accogliere espressioni di tutte le parti del mondo, soprattutto mediterranee. Allora, ed è un po' simbolo, bisogna no? dire che la stanno restaurando proprio in questi giorni, sì, almeno sì, così sì, hanno sì, detto sì, l'avrebbero restaurata. C'è da dire che la Porta Magica, da archeologa dico che fa parte dell'acquedotto, che è il Trionfo di Mario, che sta lì sotto, in mezzo, sì, è una parte dell'acquedotto, quindi è una bella leggenda. Diciamo che il nostro nuovo oro sono le persone che vengono a Roma e danno il loro contributo. E comunque sa anche questo di alchemico, no? Sa anche questo di contaminazioni e di meravigliose pozioni, l'incontro tra elementi vari. E questa musicalmente a che ci introduce? Ci introduce niente di meno a un progetto che appunto prende nome dalla Porta Magica, un progetto che è appannaggio dell'associazione Controchiave, un'associazione che si occupa da molti anni di musica ad ogni livello, ma anche di arte ad ogni livello, perché si occupa anche di musica, di cinema, teatro, eccetera, e soprattutto organizza una importante festa dal 94 a Roma, in cui si incontrano le varie realtà artistiche della nostra città, e quindi ovviamente noi omaggiamo questo tipo di iniziative e vi invitiamo già suonato. Da oggi ci abbiamo suonato ampiamente in vari modi e sottolineiamo questo tipo di espressioni, di eventi che si svolgono nella nostra città, perché sono di una importanza rilevante affinché l'arte si propaghi sempre di più per strada e che le strade, le piazze siano sempre di più il luogo consono all'incontro tra la gente, tra le genti, e all'insegna, perché no, della musica, dello spettacolo e della tradizione anche. Sì, stiamo parlando di un quartiere importantissimo per la città, che è la Garbatella. Ne parleremo tantissimo, tant'è vero che questa iniziativa, quando si svolge il giorno della giornata della musica, a giugno è la festa della musica, quindi poi è una festa europea in realtà. Fantastici cortili della Garbatella, le piazze, le strade si riempiono di musicisti, di giocolerie, di tante cose, quindi introduciamo questo prendiamo spunto da questo, da tutte queste da questi nostri racconti, e introduciamo Lo Specchio. È il primo brano che introduce appunto questo lavoro discografico dell'associazione, che è un progetto di diversi anni fa. Sempre svariati, diciamo, di decenni fa, è un pochino sì, caratterizzato da musicisti che vengono dal jazz. Sì, citiamo, intanto iniziamo. Vai. Con la musica. invecchia, non me guarda, sta faccia de vetro che anima già, la mente che pensa prevede se strizza in lacrime. Che voglio di, no voglio anna, tempesta de sensi e farse realtà, ne coce sto fuoco che fonde pensiero e anima. L'anima amore, voglio sapere perché, perché noi parliamo di libertà e poi ste sbarre ciò dentro il cuore non sa volà. Voglio senti sfiora ste mani de vento. Bello, no? Beh, direi interessante effettivamente. portiamo fuori questo disco, eccolo qua, e nostri, sempre nella nostra abilità tecnica, cercheremo di superare anche i nostri piccoli certo, piano piano. Certo, piano piano. Allora, direi un intreccio interessante, anche se devo dire io inarcavo le sopracciglia, perché i musicisti jazz che si confrontano con la musica romana non sempre hanno fatto cose eccelse. Questi, devo dire, prima di tutto, grande qualità. Beh, sì, grande qualità. L'autore, l'arrangiatore è Alessandro Contini, e la voce che avete sentito, quindi, è il cantante. E c'erano però varie collaborazioni, c'era un assolo straordinario di Vinitucci alla fisarmonica, c'era l'intervento vocale di Raffaella Siniscalchi, insomma, degli ottimi musicisti. Poi il progetto è anche di Scatozza, cioè sono tutti musicisti, che ne so, io me li ricordo non solo per Controchiave, ma anche per vari contributi alla Scuola di Musica Popolare di Testaccio. Insomma, robetta niente male, gira, bisogna solo saperla trovare. Eh no? Certo, sì, sì, è questo. Allora, adesso andiamo invece, parliamo di un grande classicone, di qualcuno che non può mancare in una trasmissione che parla di Roma, anche se effettivamente quando poi ci penso dico, oddio, ancora lui, ma non dovevamo vederci più, diceva il caro Battisti. Di chi sto parlando? No, Claudio Villa, è Reuccio. No, no, per carità, qui adesso ci sarà una insurrezione popolare. Dico semplicemente che non ne sono, diciamo, cioè, per carità, canta benissimo, era simpaticissimo, era pure compagno, così almeno abbiamo scoperto, insomma, magari non, però abbastanza. Un po' spaccone, ma caratterino. Quello, sì, ma certo. E ma poi quello, faceva le gare di canto, a chi urlava di più. Allora, stiamo parlando di Claudio Villa, e noi per portarvi oggi il contributo villiano andiamo su un altro classicone, un brano importantissimo che conoscono anche i Sassi. Gli autori sono Del Pelo, sì, Meoni e De Torres, è un brano degli anni 30, da quello che abbiamo capito, ma poi anche questo lo potremo verificare. Dovrebbe essere un brano che è uscito fuori dal Festival della Canzone Romana, che in quegli anni si effettuava subito fuori porta, fuori San Giovanni. Quindi piangiamo un pochino su questa casetta di Trastevere che viene giù, che ci ricorda poi l'abbattimento del quartiere per la realizzazione della Conciliazione, uno dei tanti sfasci fatti dai fasci. Piace. Ecco a voi casetta. No, non è niente un po' de carcinaccio, aspettatevi tiro un po' più un po', me metto buono buono e che ve faccio, sfasciate pure che io me sto a guardare, e sotto quel piccone traditore, come quel muro, me si sfascia il cuore. Casetta di Trastevere, casa di mamma mia, pare che remonno stia, cascanna presso a te, tutti i sogni cascherò. Piano murato con quel piccone, non lo vedi, c'è mamma ancora lì, appiccicata proprio a quel cantone, c'è sta per letto in dove c'è morì, e c'è rimasta, fai piano con le pale, non lo vedete, che fate male, casetta di Trastevere, casa di mamma mia, pare che remonno stia, cascanna presto. da te. Tutti i sogni caschino, rare amore bello, amore d'amo che mi madre morta, io non te vedo più. Fa piano murato o cuore piccone, noi stiamo ridacchiando, ma perché 40 secondi finali di Melisma, cioè parliamo 40 secondi finale è fondamentale su un disco, sono una cifra, allora io devo fare outing, mentre cantavamo anche noi cantiamo quanto si canta sopra la musica ovviamente, poi un giorno di nascosto aprirò i microfoni mentre cantiamo con tanto dei cori, ho tentativi di cori, di controcanti, però io mi stavo pure un po' a commuovere, perché sì, poi alla fine questa roba è un po' sugna, è un po' quella roba che ti muove l'interiore, le trippe, perché è roba, sono sofferenze comunque, no? E però dico, quando è arrivato sul Melisma, dico, ma come, segna ancora 40 minuti, gli mancano 40 minuti di Melisma, si concedeva il Reuccio, attenzione. E beh, non esageriamo. Allora, questa versione che avete sentito, queste pianole meravigliose, proprio fintissime, che poi all'epoca erano vere, adesso sono midi. All'epoca suonavano. Perché questa è una versione di casetta del 59, così dice l'utente YouTube che ci fornisce l'informazione. E noi scavalliamo di un paio d'anni e andiamo al 61, anno in cui esce un film meraviglioso. Noi siamo appassionatissimi di cinema, quindi vi proporremo piccoli brani di qua e di là, riconoscerete tutti, grandissimo, Fantasmi a Roma, il regista Antonio Pietrangeli con la cosceneggiatura di Ennio Flaiano. Intanto sentiamoci questa piccola chicca. Cerchiamo un certo Giovan Battista Villari, detto il Caparra. Sono io il Caparra. Dimmi che cosa vuoi, ma caccia via il frate! Eccolo là, lo sapevo, non ci volevo venire io. Scusaci, ma vorremmo proprio parlarti tutti e due. Che strilli, mi sento. Buongiorno, padre. A lui digli che le prediche non le sopporto. Ma figurati, non ci penso nemmeno. Piuttosto, ti ricordi di me? Sei venuto ad affrescare il chiostro dei Carmelitani. Maledetto chiostro, mi ci rupi anche un piede, per Dio. Ecco, che bisogno c'è di bestemmiare? Se lo dicevo io, è un vizio. Che cosa può aver spinto il frate da bene nella tana del diavolo? Vogliono demolirci la casa. Solo tu puoi aiutarci. Io? Ma che ci avrà da divertirsi tanto? Io poi a questo non lo E venite proprio da me. Siete cascati bene. Ma lo sapete quante volte mi hanno sfrattato? Oh, da morto, si capisce. Perché da vivo nessuno avrebbe avuto il coraggio. Stavo in un palazzetto a Montecavallo e quel marchigiano di Sisto V lo fece sbattere giù. Poi ci si mise anche il governatore di Bonaparte. E allora traslocai un'altra volta. A Porta Pia la casa la persi per colpa dei piemontesi. Andai in borgo e i fascisti spianarono tutto per farci via dalla conciliazione. Ma che... Allora decisi di ritirarmi in campagna. Qui fino a qualche anno fa ci pascevano le pecore. Guardate un po' che cosa è diventato. Tempo 6 mesi e sbatteranno giù anche la mia vecchia torre. Il pretesto che è un rudere fatiscente. Vedi, se tu ci aiutassi potresti venire ad abitare con noi. Con voi? No, non mi piace. No, con me. Oh, giù le mani, Vedi, è un posto tranquillo nella vecchia Roma. Come piace a noi, come piace anche a te. Ci sono bambini? No, la pace assoluta. Vabbè, dai, frate, di che si tratta? È una cosa molto semplice. Vedi, dove stiamo noi? Oh, non mi porterete mica in un convento, E ti pare che io ci starei, Fantastico, eccezionale. Veramente eccezionale. Dunque, poi gli interpreti sono Vittorio Gassman, Marcello Mastriani, in questa scena Tino Buazzelli, il mangiatore di polpette, il frate. Dico, se vi capita, rivedetevi Fantasmi a Roma, che è un film meraviglioso. Torneremo anche su questo film. Voglio solo ricordare una piccola perla, arte un meraviglioso Edoardo De Filippo, per carità. come si fa a non citarlo, c'è una piccola perla, la presenza di un personaggio che è la regina che canticchia, poi mi è sempre rimasta nel cuore, la regina che era interpretata da una fantastica Lilla Brignone, che era la famosa attrice che nel cinema muto poi esibì per la prima volta il seno nudo. Grande. Grande, poi è scomparsa da poco tempo. Sì. E soprattutto il cameo che fa in I Fantasmi a Roma è di una stracciona, quindi veramente anche brava a mettersi in gioco. E torneremo sul cinema romano e a Roma. Adesso c'è un piccolo omaggio da fare. Ci stanno cominciando ad arrivare dei materiali. Noi vi ricordiamo che La Signora Sono Io è raggiungibile anche via mail. Siamo La Signora Sono Io @gmail.com, vero dottoressa? Certo. Mi raccomando, mi corregga. Quindi se avete proposte, okay, richieste o suggerimenti, o volete solo dirci brave, per esempio, potete o fare dei trillini al telefono anche di Radio critica, Rossa. Eh? Sì, le critiche, ma anche no. Comunque, fra i contributi che ci sono arrivati ce n'è uno che ci sta particolarmente a cuore, ne parleremo fra poco, di Graziella Di Prospero, che è questa cantante importantissima, questa testimone del Lazio. Il marito si chiama Giorgio Pedrazzi, che ci segue e salutiamo, e ci ha mandato alcuni inediti. Uno degli inediti lo leggeremo nella prossima puntata, l'altro invece è di una sua cara amica romana che si chiama Carla Andreasi Bassi, che credo ci ascolterà, quindi anche lei salutiamo caramente. Ha scritto questa meraviglia negli anni circa 57-58, quindi abbassiamo poco la sigla e vi leggo questa. Cambiando l'ordine dei tempi e il risultato non cambia. Dicemi nonna, vecchierella santa, di cavalleria un dì ce n'era tanta. Mo fanni cascamorti al primo botto, te vogliono per forza mette sotto. T'offriveno li fiori de panzè, li mazzi de ninte scordà de me, te baciava nel porzo con passione, mettennose assai spesso ginocchione. Li cavalieri 50 anni fa, poi dicevano piano, venga là, nel separè violetto a fiori blu, ci saremo noi soli, io e tu. Mi nonna, mo tentenna un po' confusa, se porta il fazzoletto al naso, annusa. Mo che ce penso, e fa una risatella, volevano una cosa sempre quella. È sempre quella, sempre quella, voglio, sempre quella, sempre carina, quella, deliziosa. Molto carina. Noi ringraziamo Carla Andreasi Bassi e vi diciamo, grazie, se avete grazie tante cosine da mandarci, questo era un inedito, attenzione, quindi doppio ringraziamento. Adesso noi andiamo a quella che è una delle nostre grandi passioni, già il momento del confronto. Noi in ogni puntata ci proviamo a confrontare versioni dello stesso brano, diciamo possibilmente di contesti un po' diversi, e noi in questo caso scegliamo, appunto parlando di Graziella Di Prospero, un brano che è stato poi cantato da tantissime cantanti, è diventato un po' uno standard, come si dice, sì. L'ho sentito fare da Sara Modigliani, eseguire da tante persone, giusto? Mm-hmm. Sì, sì. Ed è un brano della tradizione laziale che è stato per la prima volta appunto ricercato e cantato poi da Graziella Di Prospero in un disco, in un vinile bellissimo che si chiama In mezzo al petto mio c'è sta un serpente. Il brano che prende il titolo originale dall'incipit, come si faceva appunto nella tradizione più antica, dall'incipit della prima strofa, si chiama Alziti bella, ed è una serenata molto particolare, molto bella, perché tra le altre cose in questa serenata, che è molto antica, si sentono una serie di influenze delle romanze ottocentesche, si sentono anche delle melodie diciamo del basso Lazio, quindi già quasi di area campana. Quindi noi intanto vi facciamo sentire la versione di Graziella Di Prospero di Alziti bella, che è stupenda, e poi vedremo con che cosa la confronteremo. Quindi tentiamo di mettere il CD. Sei colcata moro per te. Sento una smania di averti accanto, anche Ed eccoci, questa era una meravigliosa versione di Alzi di Bella, cantata da questa stupenda voce di Graziella Di Prospero. Anche queste chitarre, stavamo lodando, elogiando l'arrangiamento delle chitarre, molto belle, molto, sì, belle, molto belle. E adesso noi con che cosa andiamo a confrontarlo? Con una cosa che, ahimè, viene dalle mie saccocce, dalle mie tasche. Fa parte, io sono la Iorona, la cantante di questo gruppo che si chiama Banda Iorona. Abbiamo pubblicato questo album che si chiama Metteci Sopra, e all'interno dell'album abbiamo soffrito della compagnia, direi proprio, la definirei così, di tanti ospiti, uno dei quali è un meraviglioso personaggio che si chiama Giorgio Di Rabassi. Beh, un attore eccezionale che assolutamente rispecchia la romanità in tutti gli effetti, nel senso che è un bravissimo cantante, come sentirete presto, e come magari conoscete già, visto che porta in scena da tanto tempo pezzi teatrali con all'interno canzoni, e anche spesso canzoni romane, adattamenti anche spiritosi ma anche molto profondi, letture del tutto personali e molto interessanti. È una persona che comunque ha lavorato, lavora con Gigi Proietti, quindi stiamo parlando del top dell'attore romano, insomma, no? Attore che sa cantare, quindi attenzione. Diciamo, lo spettacolo scritto da lui si chiama Coatto Unico. C'è anche un DVD che si chiama Coatto Unico alla Bibbia. Lui ha portato questo materiale in giro, anche in carcere. Giorgio Di Rabassi è un personaggio intelligente e interessante, oltre ad essere bravo. Adesso lo sentirete praticamente, diciamo, mentre in tutti gli altri brani ho cantato io, in questo brano canta lui, quindi io mi sono tirato indietro, come si suol dire, e gli ho lasciato il totale campo libero. Ha fatto l'ospite. Noi abbiamo chiamato da molti anni chiamiamo questo brano Non Alzi di Bella, ma Serenata di Graziella, proprio per voler rendere comunque l'omaggio a colei che per noi è la testimone. E sentirete la grazia di Giorgio Di Rabassi, che ha un modo di cantare, poi la duchessa confermerà, molto all'antica maniera, cosa che a me piace moltissimo. Ecco la Serenata di Graziella. Ah! farsi di bella sì, te si corcata. Alla finestra mettiti a sedere, ascolta chi te fa sta serenata. È un giovinotto che te vuole bene, oi dormi, dormi in mezzo all'incanto, angelo. Smania di averti accanto, angelo santo, io moro per te. Apparisce sì, ma non fa giorno. S'hanno svegliati lì vicini intorno. Lo troppo di dormite porta danno. Che meraviglia! Arsi di bella sì. Non so perché, ma Winamp decide te si corcata. Che può ripartire, che gli piaceva, che andava a me lui. Piaceva pure a me. No, il Tirabassi diciamo che ha veramente una voce interessante, una bella vocalità e un melisma un po' vecchia sì, maniera, mi piace molto. Molto bello. Comunque ricorda tanto, no? Quel modo di cantare tipico, esatto, della commedia, per esempio, della commedia musicale, no? Che frequentata molto da tanti attori che magari chiaramente in prevalenza sono attori, però penso, che ne so, al Montesano del Rugantino, quando interpretava i grandi pezzi di Trovajoli, erano bellissimi, malgrado lui non fosse proprio un cantante. Sì, io teatro musicale o di musical romano so che ci sono molti esempi e ne so molto poco, quindi sicuramente ci torneremo sopra. Noi per adesso abbiamo scoperto, vabbè, c'è Fabrizi, c'è Bice Valori, c'è Panelli, vabbè, c'è Proietti, insomma, c'è la stessa Luisa De Santis che aveva cantato con la Ferri, che ha fatto dei lavori fatto con Proietti. Teatro... C'è tanta la stessa Ferri, ovviamente, insomma, sicuramente riparleremo e sentiremo brani lì. Garinegge e Mannini hanno lasciato la zampata, come si dice, no? Sì. Allora adesso cambiamo completamente argomento e andiamo a parlare di un personaggio importantissimo, almeno che a me piace veramente molto, e facciamo un omaggio a un poeta che si chiama Victor Cavallo. Victor Cavallo, il suo nome reale era Vittorio Vitolo. Era nato a Roma nel maggio del 47 alla Garbatella e se n'è andato nel gennaio del 2000, dopo essere stato completamente e impeccabilmente poeta, attore di teatro e di cinema, romanista, estremista, aperte virgolette, anarco, sorco, situazionista, chiuse virgolette, una faccia della quale non potevi fare a meno. Diciamo che Victor Cavallo è un importantissimo rappresentante dell'ambiente del teatro off capitolino, ha fatto delle parti nel cinema con Bertolucci, con Nuti, con Peter Del Monte, con Marco Tullio Giordana, con Tornatore, con Pasolini, insomma, di chi stiamo parlando? E in più è un grandissimo poeta, almeno diciamo a molti non piacciono alcune cose, soprattutto le parolacce, queste cose, questo la mia mamma, no, direbbe dice troppe parolacce, però non usa la parolaccia nel modo facile e ammiccante, come dicevi tu in una famosa intervista, che usano spesso i romani per ingraziarsi facilmente il pubblico, bensì la usa come strumento espressivo anche Victor Cavallo. Allora, se voi poi volete vedere il suo viso, sappiate comunque anche di lui riparleremo con calma, perché non è possibile esaurire l'argomento Victor Cavallo in una sola volta. Intanto vi leggerei un brano estratto dal libro Ecchime, antologia sinfonia, edito da Stampa Alternativa nel 2003. Questo piccolo brano è un lacerto da fase 4, scena 1, item 3. Ero solo sui tapis roulant che portano alla stazione Ostiense. A Piazzale dei Partigiani, un tempo, una giornata particolare, Piazzale Hitler. Qualche mese fa qui hanno accoltellato uno scellerato barbone, vestiti e spiccioli. Prima anche vendevano sigarette Monopol e la notte attorno al bar i tassinari falsi giocano a zecchinetta. Ero proprio solo e intorno ai colori, ai muri, lo scorrere lento, l'odore di immobilità. Era tutto diritto e grigiastro come una divisa sporca, tutto dritto. Invece era una curva di solitudine sociale. Se ne veniva fuori persino. Mentre pioveva i nomi delle strade erano sempre più assurdi e una fogna immensa impediva di arrivare al giornalaio e il bar di fronte puzzava di paglia bagnata che era poi la stessa puzza dei tramezzini. Come pioveva? Un mio amico quando è così dice tempo da poeti, ma no, era di più e di meno insieme come sempre quando qualcosa sembra. È arrivato un romano, zoppo e vivace come un ragazzino. Io ero seduto sotto la pioggia che diventava gnagnarella e bagnava il Messaggero, il giornale. Dice, ma tu non sei piripì, piripè, così e cosà. Non ti ricordi quella volta arfico, eccetera. Si chiamava Roberto e diceva soprattutto questo. Io bevo e pippo, la donna m'ha lasciato e quando qualcuno tradisce una volta, tradisce sempre. Vuoi una sigaretta cubana? Me l'ha data una bella figa. Che te bevi? Dammi un consiglio. Lentamente smosciava la pioggia che invece prima aveva ripreso a bestia. Lentamente veniva fuori un grigio come da sotto le ascelle degli sfortunati. Intendo un camminare che senza che me ne accorgessi diventava malignamente, ancora una volta, tapirulante. Questo è un piccolissimo lacerto di questa parte di poesia. Su Victor Cavallo torneremo perché secondo me esprime fortissimamente Roma. E adesso torniamo alla nostra musica. Una dedica particolare, dottoressa, si esprima su questo. No, in realtà prendo spunto dalla lettura ma magari con la scelta che stiamo per fare, per l'ascolto che vi stiamo proponendo, probabilmente creeremo dei punti, diciamo, di scontro, di punti però di vista diversi. Fra Victor Cavallo però, e l'uomo che vedo apparire su quello schermo, non porrei proprio niente in comune. No, però solo dalla che lettura, sono andati a Roma no. Tutte e due. No, eppure il tema che tratta anche l'uomo che abbiamo di fronte. Oddio, in questo momento. Forse sì. Questo in questo momento, perché io mi riferisco esclusivamente, e sottolineo esclusivamente, alla canzone. Non all'uomo? Vi prego, faccio un grande sforzo in questo momento. Chi mi conosce lo sa bene, faccio un grandissimo sforzo e poi insomma mi rendo conto del luogo in cui sono. Faccio un grandissimo sforzo e vi chiedo un grandissimo sforzo. Assolutamente concentratevi sulla canzone, esclusivamente sulla musica. Allora presentiamo questo brano. L'uomo è Franco Califano, detto il Califfo, e la canzone è una simpaticissima, con un arrangiamento molto interessante, Io m'embriaco. Come so caduto un piedi per salvarmi dei rimedi, ce n'ho più di te. Tanto sta passando lo spavento che mi dà l'isolamento de non sta con te. Bene, non te do soddisfazione de vedermi in condizione de chi fa pietà. Moro, ma si pure m'addoloro, prima o poi mi rinnamoro, prima o poi se sa. Intanto io m'embriaco, perché non me te voglio ricordare. M'accenno dentro il fuoco, finché la testa non se ne va. Core, sopravvivi a sto dolore, non mi dà più il dispiacere di crollare per lei. Tanto io mi sto rendendo conto che non c'ha più il sopravvento, che mi sto a salvare. Intanto io m'embriaco, perché non me te voglio ricordare. M'accenno dentro il fuoco, finché la testa mia non se ne va. Embriaco, perché non me ne voglio ricordare. M'accenno dentro il fuoco, finché la testa mia non se ne va. Cuore, sopravvivi a sto dolore, non me dà più il dispiacere che crollate lei. Tanto io mi sto rendendo conto che non c'ha più il sopravvento, che me sto a salvare. Thank you. eccoci di ritorno. Sapevamo che avremmo probabilmente avuto ricevuto urtato sensibilità delle opinioni varie, ma noi mettiamo o cerchiamo di mettere l'arte, l'espressione avanti a tutto, avanti a noi stesse. No, cioè, nel senso, l'abbiamo detto che Califano non siamo d'accordo con l'uomo, ci è stato detto è misogino, se per questo è pure omofobo, perché non dire no, vabbè. No, per dire, non vorrei proprio parlarne, appunto, perché appunto. Non vorrei dare proprio spazio a questi argomenti che non ci riguardano, ci riguarda la musica, ci riguarda l'arte, ci riguarda tutto, però ci riguarda tutto, ma non in questo contesto. Noi vogliamo proprio invece dare una chiave di lettura più profonda, non neanche più profonda, più legata alle espressioni artistiche. Quindi certo è chiaro che alcune scelte sono più difficili di altre, e anche più, perché no, generatrici di confronti anche più vivaci, ma questo anche è sintomo di grossa apertura e di ascolto verso l'altro. E adesso andiamo avanti e passiamo a una sezione del nostro La Signora Sono Io, che è immancabile, anche perché si sta avvicinando l'ora di pranzo e a questo punto io comincio proprio a venire meno, cioè proprio ho l'acquolina in bocca. Ecco la nostra duchessa che prende un libro meraviglioso dalle pagine ingiallite, e però mi pare che questa volta, visto che ci siamo dati appuntamento prima della trasmissione al bar a prenderci il nostro succo d'arancia, il nostro caffettino della Signora Sono Io, signora, no? Della signora, giustamente, mi ha detto che avevi un aneddoto da raccontare. Ma sì, perché stamattina appunto aspettavo Bianca, sono arrivata un po' in anticipo, aspettavo Bianca. No, so io che arrivo sempre in ritardo, diciamo. E non lo volevo dire. Era più carino come l'avevo detto io, dai. E insomma, aspettavo lì e stavo un po' così che riflettevo la puntata, le cose. A un certo momento, ed ero di spalle rispetto al bancone del bar, perché già ero seduta al tavolino col cappuccino. Entra una signora e fa, con una voce che io poesia pura, fa: "Ciao Ni", gli fa al giovane barista, gli fa: "Ciao Ni", con un tono di voce che già a me quello mi giro per vedere chi era, e vedo che era una signora più avanti, abbastanza avanti negli anni, insomma, molto carina, molto gentile, vestita in maniera molto molto sobria, che fa: "Ti posso lasciare sta cosa pa sora Cesira?" Io a sora Cesira dico: ma che ci stanno ancora le sore Cesire a Roma? A parte a San quella Lorenzo, famosa sì. È fantastica a San Lorenzo, io sto a San Lorenzo al baretto. Insomma, la signora gli fa, il barista ha tentato di dire una parola, ma lei l'aveva già: "Hai capito chi è? La sora Cesira, la signora quella de..." E lui cercava di dire una parola, chi, sì, forse mi prendo, non ha detto una parola, che lei gli fa: "No, non ti preoccupa, so carciofi." Cioè, praticamente lei era la signora del mercato che aveva preparato, capato i carciofi alla sora Cesira, che se andava a ritirare al baretto, si vede che non faceva tempo a passare a me al mercato. A me si stanno aprendo una serie di orizzonti veramente spaventosi. E io che mi guardavo tutta la scena con sto ragazzo poraccio sul balcone del bar, che non poteva dire una parola, perché tanto lei: "Hai capito chi è? La sora Cesira, quella che..." E niente, lui porello attonito. Insomma, che significa questo? Che la sora Cesira oggi prepara i carciofi. Ma mi stai per evidente. Caso che questa ricetta è vegetariana? Anche è questa? Sì, è totalmente. È vegana anche, ti risulta? È vegetariana? Beh, sì, perché no? Ci oddio. Sono latticini derivati No, qui stiamo a parlare proprio di uno degli emblemi della cucina, ancora una volta, della cucina romana, perché stiamo a parlare dei carciofi. Perché parlavo dei carciofi? Perché sono un orgoglio proprio romano. In realtà ce ne esistono tantissime specie. Questa, quella del carciofo romanesco, è una tradizione antichissima. E diciamo che a Roma si mangiano prevalentemente carciofi dell'area, diciamo, da Roma a Civitavecchia, no? E famosi quelli della Dispoli, eccetera, eccetera. Ma qual è il segreto dei carciofi? Adesso io per stringere, io racconto sempre di un cibo, in questo caso di stagione. Di un cibo di stagione, perché fa bene così. E poi perché parlare di un cibo è anche parlare di, appunto, della cultura della gente, come da sora Cesira, quello che mangia la sora Cesira e la sua famiglia, ovviamente. E del carciofo che cosa dire? Il segreto del buon carciofo qual è? È quello di pulirlo bene. E quindi passarlo bene, togliere le parti più dure, perché sennò finisci che fai, sai, come dice l'antica guida: cianci che sputi. c'ha anche quella un e voi capite bene di che certo. Sto parlando. No, bisogna punirlo bene, bisogna punirlo bene nelle parti più coriacee. E quando poi il carciofo è ben mondato, è ben pulito, va messo, va aperto, quindi schiacciato dalla parte del fiore. Mia madre gli dà delle pezze paurose, delle pezze, perché fa parte della procedura, no? Vai dai, la pezza, ci metti un pezzetto d'aglio, ci metti la ventuccia, quella chiaramente quella romana. Poi li metti nella pila. La pila deve essere alta e abbastanza stretta, diciamo capiente, affinché contenga i carciofi messi a testa in giù, quindi dalla parte del fiore deve stare sulla parte bassa della pila. E l'olio non deve essere in goccetto, deve essere abbondante, cioè deve coprire almeno la metà del carciofo. E questa è la ricetta. Ma vera, ma tu stai a parlare la ricetta, come si chiama? Perché il carciofo romano. Il carciofo a romana. Carciofo a romana, quello è. Il gambo quando è troppo lungo, tu sei d'accordo su questa scuola di pensiero? Va tolto perché un pezzetto è coriaceo. L'altro pezzetto lo tagli in caso mai fosse troppo lungo, lo metti giù. Perché poi, una volta messo l'olio fino a metà dell'altezza del carciofo, quindi significa tantissimo olio. Ma infatti è un botto. È un botto, ma avviene solo così. Poi rigolmi tutta la pila fino all'orlo. Che succede? Che nella cottura al fuoco lentissimo l'acqua poi evaporerà e quindi a quel punto il carciofo sarà saporito e cotto e fatto a puntino. Cioè, tu adesso aglio e mentuccia? Aglio, ovviamente sale e pepe quando nel momento in cui lo mettiamo giù. E questo è quanto. Il segreto è pulirlo bene e mettere tanto olio. E andarli a comprare dalla signora che fornisce la Sara al mercato. E adesso io a me mi si è aperta un'immagine che è abbastanza sconcertante. Mi ricordo una volta che stavo col cane mio alla Caffarella, al parco della Caffarella. Se non ricordo male, c'è una parte liminale del parco della Caffarella che sta vicino proprio a Piazza Zama, dove ci stanno delle assurde. Tu pensi, mi sono fatta una canna di troppo o qualunque cosa sia, ho bevuto troppo o qualunque sia la droga specifica, perché vedi coltivazione di carciofi. Certo, ma subito fuori dentro la ma è normale città, perché il carciofo a parte che è buonissimo ma è anche molto molto nutriente. Ma c'è qualcuno che invece da c'è l'orticello, c'è la testina di carciofi? Sì, come no, ha voglia, la Caffarella è piena, sono pure bellissimi. Peraltro il carciofo, della famiglia dei carciofi ci stanno anche i gardi, che a Roma si chiamano i gobbi, che sono un cibo assolutamente povero, ma sono squisiti. Poi ne parleremo, daremo pure delle dritte, di ricette per come utilizzarle. Per i carciofi, un'altra curiosità è che quando li cuociamo possiamo mettere un foglio di carta paglia, si metteva una volta, adesso si può mettere pure un canavaccio. La carta paglia è una tipologia di carta con cui si avvolgono gli alimenti. E prima c'era solo quella, adesso ce ne stanno 2000 tipi di carte per alimenti. E la carta paglia è quella marroncina che si usa per assorbire i fritti, quelle cose là. La carta del pane? No, non è la carta del pane, è un po' più spugno, un po' un altro tipo. Infatti, appunto, svolge questa sì, la carta del pane, chiamiamola. Però se trovi la carta paglia quella vera è meglio. E che fa questa funzione di spartiacque, trattiene il vapore e cuoce meglio i carciofi. Peraltro i carciofi, un'altra curiosità è che sono buonissimi appena fatti, caldi, ma sono buonissimi pure freddi, e la tradizione vuole che non si riscaldino mai. Io come dire, obbedisco, insomma. Allora adesso noi vi salutiamo perché stiamo arrivando alla fine di quest'altra puntata. Dunque adesso metteremo un ultimo brano che diciamo è sempre parte del patrimonio della banda Iorona, ai noi, però siccome parla di cibo e di amore ci sembrava molto bello finire la trasmissione con questo brano. Dunque sui carciofi, io prima di parlare di cibo, sapendo poi che mia madre sta ascoltando, ciao mamma, adesso vengo a mangiare, non so se hai i carciofi, non, spero che tu abbia preparato dei carciofi. Vorrei fare un piccolo saluto un pochino più serio. È scomparso ieri, credo, o perlomeno ieri si è diffusa la notizia, un grandissimo musicista che abitava a Roma da tantissimi anni, un membro della comunità, diciamo, sì. Un personaggio meraviglioso che si chiama Karl Potter. Chiunque l'ha conosciuto di persona se lo ricorderà questo meraviglioso uomo sorridente, grandissimo musicista. Carl Porter ha suonato, ha fatto parte della diciamo della parte americana napoletana, quindi insieme a James Senese e altri esponenti. Poi lui era di colore, ha suonato con Pino Daniele, sì, in tantissimi dischi, ma soprattutto forniva tanta gioia di vivere, era sempre disponibile a qualunque tipo di esperienza musicale, sempre disponibile a offrirti un caffè e sì, a bere qualcosa con te. Quindi chiunque l'ha conosciuto se lo ricorda con grande amore, ecco, questo viene da dire. Quindi diciamo, Carl, grazie per quello che ci hai dato e buon viaggio anche a te. A questo punto vi salutiamo, vi ricordiamo che la prossima puntata andrà in onda giovedì, sempre alla stessa ora, sempre dagli studi di Radio Onda Rossa. C'è qui con me Bianca Giovannini, la Iorona. E ha parlato Stefania Placidi, la Duchessa. Vi salutiamo con Fame d'Amore. Buon pranzo a tutti. Hai gli occhi belli come due pagnotte appena uscite dal forno dell'Ariano, tonde croccanti tanto so ben cotte che me le mangerebbe in un baleno. Le labbra tue so dolci come fiori de zucca fritti dentro la pastella, soffici dentro e scrocchi fuori, rigonfi da licetti e mozzarella. De te non son mai sazia, so sincera, sfizio e tanto ancora, m'ingozzerei di te a qualunque ora. Sei come un involtino primavera, sei l'aglio e olio magnato a mezzanotte per pecorino sulla matriciana, er vino quando esce dalla botte, la pastarella del fino eleganti e quei ditini s'affusolati come arrosticini. Se dice che chi ama inappetente, ma nel mio caso non è vero niente. Se dice che chi ama inappetente, ma nel mio caso non